Sono le 8:56 di martedì 25 giugno 2024 e oggi è sicuramente un bel giorno perché Julian Assange ha ritrovato la libertà, notizia che aspettavamo da molto tempo e possiamo davvero dire che il giornalismo può provare a ripartire da qui, perché quello che ha fatto Assange in tutti questi anni è giornalismo, quello vero, quello che non si chiede a quale potere privato serva quello che stiamo scrivendo, oppure che non si chiede nemmeno a quale di quale potere dobbiamo preoccuparci, perché in democrazia, se davvero il giornalismo serve a formare in modo trasparente il consenso e il dissenso, e questa è l'unica domanda che dobbiamo porci. E sono stati anni in cui, adesso, al di là insomma della riconoscenza che tutti dobbiamo avere nei confronti di Assange per averci rivelato tutto quello che non funziona nelle cosiddette democrazie occidentali, dobbiamo secondo me soprattutto ringraziare questa grande rete di attivisti che non si è mai fermata un attimo nel chiedere la sua liberazione, nel tenere alta l'attenzione sul suo caso, che era nel frattempo completamente ignorato dai media, a cominciare da Stefania Maurizi, che di delle carte, diciamo, di WikiLeaks in Italia e non solo è stata un po' la custode in tutti questi anni, e noi ci aspettiamo che sia lei sia magari anche Assange ricomincino a svolgere quel lavoro straordinario che ci ha permesso di entrare in possesso di tante verità altrimenti occultate alle persone proprio dall'industria dei media, proprio da quell'industria in cui le costituzioni democratiche fanno affidamento, se leggiamo l'articolo 21, che ci ricorda appunto che la libertà d'espressione si esercita soprattutto a mezzo stampa, tant'è che l'articolo si preoccupa anzitutto di proteggerla da autorizzazioni e da censure. Ebbene, quello che abbiamo scoperto negli ultimi 70 anni è che non basta proteggere la stampa dalle autorizzazioni e dalle censure se poi la stampa diventa essa stessa megafono del potere privato e dell'industria che essa stessa esprime. Grazie a Julian Assange e ricominciamo da qua.